ragazzo ormai corre troppo per noi. So dove sei, tu non stai correndo qui da me, sei rimasta con lui. Le luci bianche nella notte sembrano accese per me. È tutta mia la città, tutta mia la città, un deserto che conosco. Tutta mia la città, questa notte un uomo piangerà.